Benvenuti al dibattito. Oggi ci immergeremo in uno scambio intellettuale e nell'analisi di molteplici prospettive riguardanti un documento fondamentale sulla didattica della videoscrittura. Parliamo di Tasti e testi, un testo scritto nel 1998 da Marco Guastavigna. All'epoca proponeva un percorso didattico estremamente rigoroso, articolato in 5 tappe, per insegnare l'uso del word processing nelle scuole, cioè dalle elementari fino al biennio delle superiori. Esatto. Ed erano quegli anni in cui si cercava disperatamente di sistematizzare l'ingresso delle nuove tecnologie nell'educazione. Non bastava più semplicemente mettere un computer in un'aula. Bisognava davvero capire come insegnare a usarlo per pensare. Certo. E la questione centrale che guiderà la nostra discussione odierna è molto specifica. Perché queste ipotesi così raffinate hanno fallito? Ovvero indagheremo se e perché questa ipotesi pedagogica così minuziosamente strutturata abbia mostrato intrinseche limitazioni e potenziali fallimenti nell'adattarsi ai reali processi cognitivi umani. Che è un tema affascinante. Assolutamente. Per quanto mi riguarda, sostengo che questa ipotesi altamente strutturata, dall'isolamento delle singole funzioni fino all'outlining gerarchico, fosse in realtà un modello cognitivo necessario e brillante per forzare la transizione verso la dinamicità del testo. Io invece sostengo che l'ipotesi, per quanto innegabilmente raffinata, abbia fallito proprio a causa della sua natura eccessivamente meccanica e prescrittiva, che finisce inevitabilmente per entrare in conflitto con gli stili cognitivi naturali e fluidi di chi scrive. Allora, partiamo dalle fondamenta. Credo sia essenziale, riconoscere come l'autore avesse compreso una verità fondamentale per l'epoca. L'introduzione delle nuove tecnologie richiedeva un'autentica, e cito, modificazione cognitiva del rapporto con il testo, nella direzione della dinamicità. Un'intuizione formidabile, questo te lo concedo. È che lui non ha scritto un banale manuale di istruzioni del software, ha proposto un'ipotesi pedagogica profonda e ha mappato brillantemente ogni singola azione fisica o visiva con un'operazione cognitiva precisa. Mettiamola così, quando l'utente cancella una parola, non sta solo premendo backspace, sta compiendo un atto cognitivo di sintesi. Quando sposta una frase con il taglia e incolla, sta operando una vera e propria ricostruzione di sequenze. Non credo affatto che questo impianto sia un fallimento. Chiaro. Al contrario, era l'unico modo rigoroso per insegnare che la scrittura digitale procede per affinamenti progressivi e soprattutto reversibilità. Senza quella struttura a 5 tappe, gli studenti avrebbero continuato a trattare il computer come una macchina da scrivere. Guarda, io riconosco pienamente lo sforzo analitico. L'idea di scomporre le operazioni in una matrice denota una mente lucida, però è proprio qui che risiede il nucleo del fallimento di questa ipotesi. Ci troviamo di fronte all'eccessiva ingegnerizzazione di un processo che è organicamente, profondamente organico. L'ipotesi crolla proprio quando tenta di imporre strutture rigide. Strutture rigide? Io le chiamerei impalcature. Ma lo dice l'autore stesso. Nel materiale lui deve ammettere che strumenti come l'outlining nella quarta e quinta tappa possono risultare, cito testualmente, macchinosi e addirittura controintuitivi. E l'ipotesi fallisce perché tratta il testo come un assemblaggio industriale. Dimentica che le funzioni logico-comunicative non possono essere ridotte a meri automatismi procedurali. Capisco perché tu la pensi così, ma lasciami offrire una prospettiva diversa. Prendi proprio le fasi iniziali, la prima e la seconda tappa. L'autore propone esercizi di manipolazione testuale mirati a smuovere gli atteggiamenti cognitivi, isolando funzioni come l'inserimento o la cancellazione. Mi dispiace, ma proprio non mi convince. Lascia che ti spieghi il perché. Isolare funzioni come, lo spazio tra le parole o la cancellazione in esercizi totalmente decontestualizzati uccide la naturalezza della scrittura. Trattare lo spazio vuoto come un carattere come gli altri, solo non visibile, è tecnicamente corretto. E infatti dal punto di vista informatico lo è? Certo, per la macchina, ma pedagogicamente è alienante. Stai chiedendo a un studente di diventare un operatore di macchina che assembla codice invisibile, allontanandolo dall'espressione del significato. Devi però considerare le influenze delle tecnologie tradizionali. Prima dell'avvento del word processing, lo spazio era percepito fisicamente come un movimento con traccia nulla. Se usavi la macchina da scrivere, premevi un tasto che faceva scorrere il carrello a vuoto. Sì, una pura assenza. Esatto. Costringere l'utente a reimparare lo spazio e il comando a capo tramite la manipolazione testuale diretta non era un vezzo, era una necessità assoluta per distruggere quella fallace analogia con la carta. Senza questa destrutturazione, gli utenti avrebbero continuato a premere la barra spaziatrice 30 volte per centrare un titolo. E su questo, se parliamo di pura formattazione per evitare errori banali, potrei anche essere d'accordo. Ma il vero cortocircuito si innesca quando questa logica analitica viene applicata alla fase di ideazione. Mi riferisco alla terza tappa. Il lavoro sull'espansione delle liste. Sì, perché è qui che il testo riconosce esplicitamente l'esistenza di due modelli estremi di scrittore. Da una parte il pianificatore e dall'altra lo scopritore, colui che si immerge nel flusso di scrittura. Eppure l'intera ipotesi impone brutalmente il metodo del pianificatore. Costringe sempre a creare liste di appunti e poi ad espanderle. L'ipotesi raffinata fallisce clamorosamente perché cerca di correggere lo scopritore invece di supportarlo. Inibisce l'esplorazione libera. È un punto interessante, sebbene io lo inquadrerei diversamente. Il testo specifica chiaramente che affidarsi solo al flusso di scrittura è tipico dello scrittore immaturo, che manca di una fase di progettazione. Non è un attacco alla creatività. Ma chiamarlo immaturo è già una condanna del suo stile cognitivo. Non direi. Il metodo non sopprime lo scopritore. Usa la plasticità e reversibilità del mezzo digitale per fornirgli un'impalcatura sicura. Permette di rifare le operazioni per prova e verifica, senza timore di sbagliare. Ricordi che ci sono due modalità di stesura. Puoi espandere direttamente o lavorare su un duplicato. È metacognizione pura che offre allo scopritore gli strumenti per strutturarsi. Io la vedo da un'angolazione diversa. Ed è proprio su questa idea di impalcatura che, secondo me, l'ipotesi collassa definitivamente sotto il suo stesso peso. Parliamo della quarta e quinta tappa. L'introduzione delle strutture gerarchiche e sequenziali, l'outlining. Forza gli studenti a usare l'indice legale o americano, quello con 1, 1.1, 1.2. Sì, le strutture ad albero. L'autore stesso nota che il progetto cresce senza cambiare luogo fisico e che questo può indubbiamente, cito di nuovo, inizialmente creare conflitti e confusione. Sul foglio di carta gli appunti stanno da una parte e il testo dall'altra. Nello schermo condiviso, questa fusione diventa una sovrastruttura che paralizza il pensiero. Non sono convinta da questa linea di ragionamento perché confonde la naturale difficoltà dell'apprendimento con il fallimento del metodo. L'outlining è in realtà il culmine logico della scrittura flessibile. Un culmine che richiede però uno sforzo cognitivo enorme per un adolescente. Certo, permette di subordinare gli elementi testuali a quelli strutturali. Il fatto che sia complesso e generi confusione iniziale non significa che abbia fallito, ma che richiede l'acquisizione di obiettivi operativi complessi. È un allenamento mentale essenziale per elaborare testi articolati, come le argomentazioni o i rapporti di ricerca che vengono richiesti al biennio. Navigare in tempo reale tra architettura e dettaglio è la massima espressione del word processing. Ma quando il sistema richiede di cancellare la traccia della progettazione per non invadere la prosa fluida, stai chiedendo all'utente una ginnastica mentale eccessiva. L'intento di subordinare il testo alla struttura presuppone che il pensiero preceda sempre in modo perfetto l'espressione, e questo ignora che l'atto dello scrivere genera esso stesso intuizioni. Costringere l'esplorazione dentro schemi numerici manda un messaggio chiaro: il pensiero disordinato è un errore di sistema da ripulire. Però, e questo è un punto cruciale, l'autore chiarisce che questi schemi sono pensati per essere utilizzati in modo autodiretto alla fine del percorso. Non sono una prigione, sono l'interiorizzazione di una logica. Una volta appresa, l'architettura diviene trasparente, liberando la mente. Questo se il carico cognitivo non li ha prima allontanati dalla scrittura. Sicuramente è una sfida, ma per sintetizzare la mia posizione, sono fermamente convinta che la scomposizione scientifica e la strutturazione gerarchica non siano state un fallimento. hanno costituito un'architettura rigorosa e indispensabile per formare una reale consapevolezza della manipolazione digitale delle informazioni. Era l'unico modo per attraversare quella fase di transizione senza rimanere ancorati alla logica della carta. Riassumendo invece la mia visione, sono altrettanto convinto che la raffinatezza teorica dell'ipotesi sia stata la sua stessa condanna, forzando l'utente in logiche di outlining macchinose e imponendo il modello del pianificatore, l'ipotesi ha perso di vista l'essenza fluida e imprevedibile della creatività umana. Ha ingegnerizzato la scrittura rischiando di alienare lo scrittore. Certo, sono posizioni in netto contrasto, ma credo ci sia un terreno comune. Entrambi concordiamo sulla brillantezza dell'autore nel riconoscere in un'epoca di forte transizione la profonda correlazione tra l'azione fisica sul software, come il taglia e incolla, e la manipolazione cognitiva dell'informazione. Assolutamente. Aver sollevato il velo sull'interfaccia, rivelandola come uno spazio di cognizione, è un merito storico innegabile di Guastavigna. E questo ci porta a riflettere su quanto il documento ci inviti ancora oggi a domandarci se debba essere la mente umana ad adattarsi alle architetture rigorose del software, o se debba essere il software a piegarsi ai nostri istinti di scopritori. Un interrogativo che, guardando anche alle intelligenze artificiali di oggi, offre ancora molti spunti inesplorati sulle implicazioni neurologiche e didattiche della tecnologia. Molto vero. Lasciamo a chi ci ascolta l'onere di esplorare queste molteplici prospettive e trarre le proprie conclusioni. Grazie per aver partecipato a questo dibattito.